ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo VI. Donna Caterina e Donna Concetta, l'usuraia e la tenitrice di gioco piccolo. Le due sorelle, Donna Caterina e Donna Concetta, erano sedute dirimpetto, da un lato e dall'altro della tavola da pranzo. Mangiavano in silenzio, con gli occhi bassi, chinandosi ogni tanto ad asciugare le labbra unte a un lembo della tovaglia, tutta chiazzata di vino azzurrigno. Sulla tavola, fra loro due, stava un gran piatto dagli orli rialzati, pieno di maccheroni conditi con olio, alici salate e aglio. Il tutto soffritto vivacemente nel tegame e buttato sulla pasta bollita un momento prima di mangiare. Le due donne ogni tanto immergevano la forchetta nei maccheroni lucidi di olio e ne tiravano nel proprio piatto, ricominciando a mangiare. Sulla tavola vi era anche una grossa ciambella di pane biancastro, poco cotto, il tortano, che esse spezzavano con le mani, aiutandosi con esso a mangiare i maccheroni. Una bottiglia di vetro verdastro, piena di un vinetto rossigno che dava riflessi azzurrastri, due bicchieri di vetro molto grandi e una saliera anche di vetro, nient'altro. Le due sorelle si servivano di forchette di piombo e di coltelli grossolani col manico nero. Ogni tanto, spezzando un pezzo di pane, lo bagnavano nell'olio soffritto al fondo del grande piatto. Caterina, la tenitrice di gioco piccolo, che era un po' più rozza, che vedeva meno gente, che viveva quasi una vita furtiva, metteva il pane con le mani nella concia dei maccheroni. Concetta, che era più fine, che andava sempre in giro, che trattava con tanta gente, per bagnare il suo pane nell'olio con le alici, lo metteva delicatamente in punta alla forchetta e lo mangiava a piccoli morsi dopo averlo guardato. Anzi, a un certo momento Concetta, avendo incontrato un aglio arrostito dalla soffrittura, lo scartò con un gesto di disgusto. Del resto le due sorelle conservavano la loro aria di perfetta somiglianza, che era fatta più dal vestito, dai gesti, dal modo di parlare, che dalle linee della fisonomia. Ambedue pettinate dalla stessa pettinatrice popolare, a due soldi la pettinatura. Avevano i capelli stirati sul sommo del capo, con la treccia fermata da grosse forcinelle di falsa tartaruga, con la frangetta spiovente sulla fronte e leggermente incipriata. Ambedue portavano il vestito della popolana napoletana agiata, la gonna senza tunica e il semplice corpetto attillato che conserva il nome spagnuolo di baschina. Ambedue portavano la grossa catena d'oro al collo, il gioiello che non lasciavano mai e che era il segno della loro formidabile potenza. Ambedue portavano gli stivaletti di pelle alti, coi tacchi di legno rumoreggianti, e ambedue per pranzare avevano lasciato il loro lavoro ordinario. Il telaio era stato respinto in fondo alla stanza, si vedevano le due sedie smosse. Adesso una servetta di 14 anni, rossa di capelli, bianchissima di viso e macchiata di lentiggini, era venuta a portare la seconda pietanza, un pezzo di quel formaggio di Basilicata che è piuttosto un latticinio secco, la provola, e insieme due grossi sedani. Con un'occhiata la servetta interrogò Donna Caterina sulla sorte dei maccheroni che restavano in fondo al piatto. «Conservane due a Menichella», disse la tenitrice di gioco piccolo, tagliandosi una larga fetta di formaggio. «Sì, signora», mormorò la fanticella uscendo. Menichella era una poveraccia di 60 anni, a cui il figliuolo, guardia municipale, era morto in una rissa di camorristi in piazza della Pignasecca per un colpo di rivoltella nel ventre. Viveva di elemosina e ogni venerdì capitava a casa delle due sorelle Esposito che le davano un piatto caldo, una mezza ciambella di pane, qualche straccio. Così facevano le sorelle Esposito per omaggio alla bella Madonna Addolorata di cui venerdì è il giorno. Il mercoledì facevano uguale elemosina a un povero cieco, detto Guarattelle, perché per molti anni aveva fatto il burattinaio, dedicando le Esposito questa carità alla Madonna del Carmine, di cui mercoledì è il giorno. e il lunedì ugualmente. Davano da mangiare a un bambino abbandonato di 10 anni, di cui tutto il vicolo Rosariello di Porta Medina si occupava, procurandogli da mangiare, mentre le sorelle Esposito lo aiutavano in quel giorno fisso, a suffragio delle anime purganti, cui appartiene il lunedì. Era, in qualunque giorno, difficile che un povero battesse a quella porta senza avere qualche cosa. Fatelo per San Giuseppe, di cui ricorre la giornata. Sia lodata la Trinità, oggi è domenica, fate elemosina. Roba da mangiare, un bicchiere di vino, qualche straccio. I pezzenti lo portavano via sempre, denari mai. Le sorelle Esposito avevano troppo grande rispetto per il soldo, come esse dicevano, per farne carità, e spiegavano che era miglior carità dar da pranzo che incitare al vizio coi denari. Un tintinnio del campanello si udì. Le due sorelle scambiarono una rapida occhiata e ripresero il lavoro. Esso, oltre quello che ci guadagnavano, serviva da loro paravento morale e materiale. Due ragazze, due sartine, entrarono spingendosi a vicenda. La prima, più coraggiosa, era la bionda Antonietta, che lavorava da una sarta a strada Santa Chiara e andava a comperare la colazione per sé e per la sua compagna Nannina dall'oste rimpetto al palazzo dell'impresa del Lotto. Ma tutte e due erano vestite miseramente, con certe grame gonnellucce di lanetta, una giacchetta vistosa ma povera di altro colore e uno scialletto nero che volentieri esse lasciavano cadere sulle braccia per mostrare il busto e un fiocchetto di nastro rosa al collo. Nannina, la più piccola, era parente delle due sorelle Esposito, ma aveva un sacro terrore delle sue zie, piene di denaro, di gioielli, che la ricevevano sempre con una meditabonda e meditata freddezza. Pure si lasciarono un baciare la mano dalla nipote. Le due ragazze rimasero in piedi presso il telaio, guardando quell'alacre lavoro come mortificate. «Non sei andata a lavoro oggi?» domandò donna Caterina Nannina. «Ci sono andata», rispose subito volubilmente la fanciulla, spinta dalle gomitate di Antonietta. «Ma la maestra ci ha mandato a fare certe spese qui vicino e siccome questa compagna mia voleva cercare un favore a voi, così siamo venute». «Da chi lo voleva il favore?» disse donna Concetta, levando il capo dalla coltre. «Da voi proprio, zia», balbettò la nipote. «Ne!» esclamò quella con una profonda intonazione ironica, sorridendo e crollando il capo. Le ragazze tacquero guardandosi. La cosa si metteva male dal principio. La tenitrice di Gioco Piccolo, subitamente disinteressata dalla questione, con un paio di forbicette tagliava l'impuntura della coltre, dove era stata già trapuntata, e la sua baschina di lanetta marrone si copriva di piccoli fili bianchi. «Beh, avete perduto la lingua? Di che si tratta?» chiese ridendo donna Concetta. «Ecco, donna Concettina, ora ve lo dico io», riprese la biondina Antonietta, mordendosi le labbra per farle diventare rosse. «Mi vorrei fare un vestito nuovo per Pasqua e un paio di stivaletti e comperarmi la mussola per farmi 3 o 4 camicie. A stringere, cucendo io tutto, quando ho finito la giornata dalla sarta, mi servono 40 lire. Io non le ho 40 lire e per metterle da parte mi ci vorrebbe un anno. Siccome ho saputo che siete tanto buona e fate tanti favori alla povera gente, così ho fatto un pensiero che voi mi avreste prestato queste 40 lire». «Hai fatto un malo pensiero», disse glacialmente l'usuraia. «E perché? Io posso scontare questo debito a un tanto la settimana. Guadagno 25 soldi al giorno. Non debbo dare un soldo a nessuno. Domandate a Nannina, vostra nipote, chi mi garantisce». «Nannina dovrebbe trovare qualcuno che garantisse lei», borbottò donna Concetta. «Ma a che ti serve questo vestito? Quello che hai addosso non ti basta? Quando non ci sono soldi non si fanno vestiti. Quando mia sorella e io non avevamo soldi, non ci facevamo vestiti. Siete tutte matte, voi altre ragazze di adesso». «Zia, zia, fateglielo questo piacere. C'ha l'innamorato e si vergogna di far cattiva figura», pregò la nipote per l'amica. «Anch'io ci ho avuto l'innamorato», replicò donna Concetta. «E non se ne vergognava quando io ero mal vestita». «Ma gli uomini di adesso sono un'altra cosa», mormorò la bionda Antonietta. «Sicché me lo fate questo favore?» «Ragazza mia, io non ti conosco. Io lavoro da Cristina Gagliardi a Santa Chiara numero 18 primo piano. Abito a Strettola di Porto numero 3. Vi potete informare?» Seguì un silenzio in cui, di nuovo, le ragazze scambiavano un'occhiata allarmata. Al più, disse levando il capo donna Concetta, io posso darti a credito della lanetta per farti un vestito e della mussolina per queste camicie. Pregherò un mercante che mi conosce, un buon uomo, ma pagherai la roba di più. Non importa, non importa, interruppe subito Antonietta, fate voi. Di che colore deve essere questa lanetta? Chiese maternamente donna Concetta. Oh, blu marino o verde bottiglia? Blu marino mi piace di più. Ti sta meglio blu marino, fai una gran figura, soggiunse Nanina con un'aria di importanza. E non si scolorisce tanto facilmente, finì di dire donna Concetta. Quanti metri te ne servono? La ragazza contava fra sé, agitando le dita come se misurasse, guardandosi la persona, contando e ricontando. 10 metri, sì. 10 metri basteranno. 5 canne? Gesù, già, te lo vorrai fare alla moda. Donna Concetti, compatite, rispose sorridendo Antonietta. Va bene, per ogni camicia ci vogliono 4 metri di mussola. Sarebbero in tutto 16 metri. E le scarpe? Chiese la ragazza esitando. Io non conosco calzolai, figlia mia. Mi darete il resto delle 40 lire in danari? S'avventurò a dire la sartina. Senti, figlia mia, disse donna Concetta. Io vengo domani, che è sabato, dalla sarta a informarmi se veramente ti danno 25 soldi al giorno e se hai preso danaro anticipato. Là combino con la sarta che invece di darti la paga intera della settimana, ogni sabato si ritenga 2 lire per me, per l'interesse delle 40 lire. 2 lire? Esclamò la ragazza, sgomentata da tutto quel discorso. Già, ne dovrei esigere 4, un soldo a lira per settimana, ma tu sei una povera giovane e ti voglio aiutare veramente. La sarta mi dà le 2 lire per l'interesse, tu poi, dal resto, sconti quello che vuoi del tuo debito. 5 lire, 3 lire, 2, come ti fa comodo. Hai capito? Sì, sì, esclamava terrorizzata la ragazza. Più presto paghi, meglio per te. Io non desidero di meglio. Però ti avverto che se ti dovessi far pagare prima dalla sarta o andartene via o fare qualche altra simile birbonata, io ti arrivo, gioia mia, e ti faccio vedere chi è Concetta Esposito. Io me ne rido di andare in galera per il sangue mio. Mi sono spiegata? Sì, signora. Sì, signora, balbettava Antonietta con le lacrime agli occhi. Però sei sempre a tempo di non farne niente, conchiuse donna Concetta gelidamente, riabbassando il capo per trapuntare la coltre. No, no, strillò la ragazza. Tutto quello che volete voi. Promettetemi che venite domani a Santa Chiara numero 18? Ci vediamo domani, disse licenziando la donna Concetta. E portate la roba, portate i denari? A questo ci devo pensare io. Addio, zia, mormorò Nannina, più pallida e più spaventata della sua amica. La Madonna vi accompagni, dissero in coro le due sorelle Esposito, ricominciando a lavorare. Un passo strascicato si udì, con rumore come di una cassa che fosse posata per terra, in un angolo della saletta. E innanzi alle due sorelle comparve tutto storto, gobbo col fianco sollevato come se ancora tenesse la cassetta da lustrare, Michele il lustrino. Salutò dicendo spagnolescamente «La vostra buona grazia», mentre le 1000 rughe del suo volto di fanciullo rachitico e invecchiato parea emanassero malizia. Le sorelle lo guardavano pazientemente aspettando che gli parlasse. «Qui mi manda Gaetano Galiero, il tagliatore di guanti». «Bel galantuomo!» esclamò donna Concetta, mettendo una striscetta di carta nel suo anello da cucire che le andava largo. «E se non fate parlare la gente, non ci capiremo mai!» soggiunse il gobbo filosoficamente. «Gaetano ha grandi obblighi con voi, ma voi siete una bella femmina che non vi manca giudizio e gli perdonerete le sue mancanze. Beh, quello che non accade in un anno, accade in un giorno e quando meno ve lo aspettate, Gaetano è qui coi denari». «Sì, sì», dissero sogghignando le due sorelle. «E poi lo vedrete. Ma io sono venuto per parlarvi di un affare mio. Io faccio, ringraziamo Iddio, un'arte migliore di quella che fa Gaetano. Sto vicino al Caffè De Angelis, alla Carità. E non faccio per dire, ma pulisco le scarpe alla migliore nobiltà di Napoli. Quello che voglio guadagnare, guadagno. Io me ne rido della malannata. Quando piove, mi metto sotto l'arco della porta, nel caffè, e più fango si fa nella strada, più scarpe pulisco. Oh, belle femmine mie, se avessi la testa buona a quest'ora sarei un signore. Ma ora, per combinare un affare grosso assai che mi può far mettere la carrozza, io ho bisogno di certi soldi. E poiché voi fate di questi piaceri alla gente, sono venuto a proporvi l'affare. Mi servono 40 lire da scontare a 3 lire la settimana. Questo sino a quando non ho fatto la combinazione grossa, perché allora vi restituisco capitale, interesse e vi fa pure un bellissimo regalo. Non vi incomodate, disse ironicamente donna Concetta. Se non li prestate a me questi soldi, a chi li volete prestare? Rispose audacemente lo sciancato. Se sto una giornata innanzi al caffè, io mi guadagno 2 lire, lo sapete? Neanche un giovane di barbiere può dire questo. D'altronde, quel posto è la mia fortuna, è la mia bottega. Se me ne vado di là, non guadagno un soldo. Non vi posso scappare, dunque. Domandate al caffettiere chi è Michele. I denari vostri nelle mie mani stanno sicuri. Il caffettiere vi dirà tutto. Se il caffettiere garantisce per voi, io vi do i denari, disse subito donna Concetta. E allora me li darebbe lui, obiettò lo sciancato. No, no. Michele non ha bisogno di garanzia. Venite domani che è sabato alle 9 dal caffettiere e sentirete il suo discorso e vedrete che mi date non 40 ma 60 lire. Sono galantuomo, sto in faccia a un pubblico, femmine mie. Beh, ci vediamo domani. Sapete l'interesse? Disse donna Concetta. Quello che voi volete, replicò galantemente lo sciancato. Anche una tazza di caffè con una pagnottina dentro, al caffè sono padrone io. Avete comandi? Preghiere sempre, mormorarono le due donne mentre egli se ne andava. Dopo una pausa di lavoro, Caterina osservò: gli hai detto di sì troppo presto. Farò fare la garanzia al caffettiere. E poi è gobbo, porta fortuna, soggiunse donna Concetta. Se ci portasse fortuna, dovrebbe finire per noi questa vita così dura a scorticare. Riprese Caterina, che volentieri si lamentava della sua fortuna. Disse l'altra sospirando. Non abbiamo un uomo che ci dia manforte, mai. Perciò la giustizia ce la dobbiamo fare da noi, sempre. Cicillo e Alfonso sono due scemi, è inutile. Che ci vuoi fare? Sospirò l'altra. E le due sorelle, lasciando di lavorare, con le mani abbandonate sulla coperta rossa, si misero al loro segreto cruccio, a quella pena tormentosa che non confessavano a nessuno, a quei due fidanzati loro, due buoni operai dell'arsenale, i due fratelli Iannaccone, che le amavano, ma che non volevano sposarle, nessuno dei due, per il mestiere che esse facevano. Da 3 anni esse combattevano quella lotta fra l'amore e il danaro, ma Cicillo e Alfonso Iannaccone non volevano saperne. Lo sposare una tenitrice di gioco piccolo e un'imprestatrice di denaro a usura le avrebbe fatti vergognare innanzi a tutto l'arsenale. Specialmente Cicillo, il fidanzato di Caterina, la tenitrice di gioco piccolo, era duro come una pietra. Anzi, ogni tanto le diceva: «Caterina, un giorno o l'altro tu vai in carcere. Pago per avere la libertà provvisoria ed esco. Poi l'avvocato mi fa assolvere», diceva lei, che conosceva la legge e gli intrighi della legge. «Se vai in carcere, non vedi più la mia faccia», ribatteva Cicillo accendendo un mozzicone. Sì, quando erano sole, sole, le due sorelle si disperavano. Ma l'amore dei quattrini era così forte che faceva loro prorogare sempre l'epoca del doppio matrimonio. Pazientemente i due operai aspettavano, comperando coi loro risparmi lentamente i mobili per mettere su casa insieme, poiché non si erano mai divisi. «A Pasqua», dicevano le due sorelle, pensando di finirla con tutti i loro impegni per quell'epoca. «A Pasqua», annuivano i due fratelli. «A settembre», dicevano esse nell'aprile, essendosi invischiate più che mai in quella rete di sordidi affari. E sempre, quando erano sole, le due sorelle si lagnavano di essere maltrattate dal destino, di essere misconosciute dagli uomini che amavano e concludevano: «Cicillo e Alfonso sono due scemi». Ma anche in quel giorno non rimasero a lungo sole. Il triste mestiere continuò sino a sera. Cadeva quella dura e faticosa giornata di venerdì. Le due sorelle, ora che annottava, avevano lasciato di trapuntare la coperta e Caterina, per la gran giornata del sabato che era la sua, preparava certi grossi registri scritti a caratteri informi, tutti cifre, in cui ella si raccapezzava benissimo. Sotto il lume a petrolio, chinata sopra il registro, pensando, muoveva le labbra. E Concetta, vedendola immersa nel suo grave lavoro settimanale, taceva, rispettando quella sagace preparazione, sentendo che da essa l'indomani sarebbero sgorgati denari, denari, denari. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.